Sarà un pochino complicatino, però la vostra intelligenza è così grande che... Secondo me attira l'attenzione e vale la pena soffermarsi sulle parole del discepolo Pietro. Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita. Pietro non ha capito tutto, ma risponde con un moto di spirito, con un moto istintivo di fede. E colui che parla non parla da un trono di potere, non parla nella luce del Monte Tabor, trasfigurazione, non parla con la forza dei miracoli, ma parla della sua imminente tenebrosa solitudine. Che cosa può significare per noi in concreto dire tu solo hai parole di vita? Provo a dire, significa lasciarsi coinvolgere da domande dove, come incontro Dio, dove, come incontro le persone. E chi è questo Dio oggi per me? Chi è una persona che incontro? In che luogo, in che spazio, in che esperienza Dio mi si può manifestare? Dove colgo il senso dell'esistenza umana? E ancora, per quale motivo sono autorizzato a vivere? Che senso ha il fatto che io esisto in questo momento storico, in questo pezzo di mondo, con queste persone che mi circondano? Confesso, a volte mi prende il sentimento di essere superfluo, di non essere utile, di stare ai margini e senza sapere a che scopo. Credo che questo, peraltro, sia il senso ultimo della vita, domanda che la massa oggi si pone. Faccio un passaggio. Nel porci questi interrogativi non parliamo espressamente di Dio, però sperimentiamo quello che Dio vuole, quello che Dio provoca, quello che Dio stupisce, quello che Dio incanta. Richiama nel nostro intimo qualcosa e forse qualche volta ce ne accorgiamo. Soprattutto ci accorgiamo quando qualcuno si allontana o qualcuno di noi ci allontaniamo da ciò che potremmo essere amanti della vita. Ad ogni costo, anche quando ci sentiamo impotenti di fronte ai fatti che feriscono e magari non sono efficaci. Un altro piccolo passaggio. La vita proposta da Gesù Cristo non è una vita dell'aldilà, è una vita totale che implica anche andare oltre la morte, ma vita totale che comincia ora dal modo con cui reagiamo, di fronte alle notizie, di fronte agli eventi che capitano sotto i nostri occhi, o là dove per strada incontriamo qualcuno. Dico, se sono distratto di fronte alle sofferenze personali e degli altri, non posso parlare di vita totale, di vita eterna, altrimenti la mia parola è falsa, inadeguata. Del resto, per questo Gesù è stato abbandonato. Insisto un attimo, la vita eterna, vita dell'innocenza pura, è una vita in cui gli interrogativi dell'intelligenza, delle passioni, delle relazioni si sciolgono. La via da seguire per questa pienezza innocente, forse ce la suggerisce lui con la via del dono, con la via della compassione, nel farsi prudente, è la via della compassione, dello sdegno e del perdono. E chiudo perché c'è un passaggio che il brano del Vangelo non è che lo possiamo nascondere. E dico, le parole di Gesù sono difficili da accettare e lui sapeva che mormoravano anche i discepoli dello scandalo delle sue parole. Questo linguaggio è duro. Chi può intenderlo? Tuttavia Gesù non accetta di barattare la radicalità della verità e della fede in cambio di facili consensi. Facciamo tutti fatica a trovare il coraggio e la necessità delle parole scomode, di capire i veri scandali e di ammettere a noi stessi che la violenza non sa la violenza, che la giustizia è cosa assai diversa dalla vendetta. È molto più facile nasconderci dietro parole innocue che attirano critiche che avere come dono la rinuncia al rancore. Chiudo. È scomodo, difficile andare incontro a quelli che ci sembrano nemici. A volte significa rischiare di non essere capiti da molti, ma è anche un modo per dimostrare di aver compreso lo scandalo della parola di Gesù, lo scandalo della croce, del dono, del sacrificio di Cristo. Chi ora che di intendere intenda, e quelli che ognuno può cogliere quello che coglie. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.